E di te ora sento un cielo dentro, ma di te tra le mani ho polvere di sabbia, di terra, di deserto, ma dentro nello stesso tempo un cielo terzo. Tu che sei lacrima déjà vu, tu che vuoi da me nulla è più. Nulla ne ripeto, nulla, ma vorresti la mia lacrima, la mia lacrimosa rosa. Tu che vuoi essere soltanto sposa. Tu sei offesa da un mondo che ti fa lesa, nell'orgoglio stretta al cuscino l'offesa. Tu volata, ma è l'urlo di una città a profanare il tuo orecchio che non sa darsi pace, pace. E invece c'è l'offesa di qualcosa che ha voce più della lirica. Perché l'ignoranza ha voce più della lirica e mi fa specie che questo mondo dà voce a chi non dovrebbe averla, mentre la lirica non ne ha. Vibra il tonno di un profondo al di là che mai verrà, ma dentro l'anima te risplendi come rosa, un po' secca nell'anima, e il mio cielo ti benedirà. Tu di loto tornerai dentro una lacrima in su. E guarda un cielo della lirica, è sempre più blu. Tu guarda in alto e non fermarti più, tu diverrai sposa. E nessuno, più nessun altro ti toccherà se non la mia lirica. In un viaggio, in un trip, in un day, all day, vai, vai, vai, corri e vai, non fermarti mai, tu che sei libera. Bella come non mai, dentro i tuoi guai, perditi e non tornare più, corri e poi vai, come persi nel vento, troveremo, oltre un incubo di Dario Argento, troveremo la nostra favola. E dentro un film di Hitchcock gli uccelli al tramonto voleranno urlando un dramma lirico del mondo che ci dimenticherà e appiomberà nella sua follia senza noi, nella nostra favola. Senza di me te il mondo chi sarà, voilà. Sono un bla bla bla, il mondo senza me e te sarà. Sono un bla bla bla, vedendo il mondo cadere sotto una lira.